Allora, oggi siamo qui Boris Porena, Fernando Sanchez, Alessandro De Rosa e volevamo discutere un po' di quello che sta succedendo, insomma, in Italia. Ecco, stavamo discutendo appunto sul come mai fare delle manifestazioni, se questa cosa ha senso fare delle manifestazioni, sul perché si fanno queste manifestazioni, in particolare su questo decreto, proprio quello Gelmini. E quindi volevamo cercare di capirci qualcosa in più di questo decreto e forse no, anche di altre cose. Ma le manifestazioni possono essere anche molto indicative e anche simpatiche, uno le può condividere, nel caso io personalmente naturalmente le condivido perché non condivido la linea portata avanti dalla ministra Gelmini o come si chiama. Però so anche ormai per averne viste una quantità enorme che queste manifestazioni in genere non solo portano a nulla o quasi, ma molte volte anche non hanno un indirizzo preciso. Sono proteste abbastanza generiche ed espresse spesso, non sempre naturalmente, anche in forme molto generiche e quindi praticamente lasciano il tempo che trovano. Il ministro, chi per lui o per lei, fa quello che gli pare, gli altri protestano per un po' di tempo, poi la protesta cala, finisce e tutto torna come prima. No, torna un po' peggio di prima, diciamolo pure. Quindi non credo molto che le manifestazioni, almeno finché restano così confinate in piccole oasi, diciamo. Certo, se fosse un movimento che coinvolge tutto il paese, il governo dovrebbe a un certo punto tenerne conto, ma finché si tratta di piccole manifestazioni in questa città o quell'altra, fatta da ragazzini più o meno consapevoli di quello che fanno e da qualche insegnante che legittimamente dubita del proprio posto di lavoro, della conservazione del proprio posto di lavoro. Queste cose non credo che abbiano un grande effetto. Qualche risonanza ce l'avranno, si devono fare perché se non si fanno è ancora peggio, però non credo che servano molto. In parte siamo d'accordo, il loro impatto indubbiamente è dubbioso. Io l'altro giorno, di un modo forse un po' idealista, dicevo che comunque le manifestazioni, più che un impatto sulla società, magari ce l'hanno sulle persone che vi partecipano, che hanno preso la decisione di almeno una volta uscire per strada e affermare, anche se in questo modo generico, non articolato, eccetera, non collegato magari a azioni veramente di trasformazione, ma almeno hanno preso quella decisione. Sì, io poi, siccome come qualcuno, pochi forse sapranno, accanto alla mia attività, diciamo, di musicista, quindi di persona che con queste cose non dovrebbe avere a che fare, almeno secondo quello che si pensa ufficialmente, invece io mi sono sempre interessato, anzi, ho dedicato più di metà della mia vita ai problemi dell'educazione e della formazione e quindi mi sono naturalmente fatto determinate idee che possono essere giuste o sbagliate, ma comunque sono frutto di lunga esperienza, pensamenti, eccetera. E quello che mi lascia sempre un pochino così, insomma, un po' insoddisfatto è che si protesta per cose legittime, naturalmente, come nel caso nostro, dove l'attentato alla scuola è evidentissimo, però se, si protesta sempre per degli epifenomeni, dei fenomeni, diciamo, di superficie, mentre il fondo non viene mai nemmeno avvicinato. Cioè, al nucleo delle cose si avvicinarono a suo tempo i nuovi, cosiddetti nuovi programmi degli anni 70 e poi quelli degli anni 80 per la scuola elementare. Cioè, quei programmi indubbiamente riflettevano, tenevano conto di alcuni cambiamenti che inevitabilmente si rendevano necessari per le scuole, ma che poi non sono stati realizzati. Cioè, tutti bellissimi discorsi sono stati fatti, poi nei fatti Non è stato speso una lira, si può dire, per queste cose. Quindi gli insegnanti continuano con il loro sottosviluppo, soprattutto appunto là dove più sarebbe necessario che loro avessero delle competenze, cioè nell'ambito della scuola elementare e media, continuassero con il loro sottosviluppo, non in quanto persone, ma in quanto non nemmeno messe a contatto con quelli che mi sembrano i problemi effettivi della scuola di oggi. Cioè, i problemi sono tali e tanti che non se ne parla nemmeno lontanamente ai livelli politici. La politica se ne frega della scuola, non gliene importa niente, perché non gli importa niente del domani. La politica pensa solo all'oggi e direi che tutta la società tende a pensare solo all'immediato, all'interesse immediato, a quello che succederà domattina, ma già dopodomani, dopodomani si vedrà, ecco. Mentre ormai siamo tutti in una situazione che si vedrà, si deve vedere adesso, non si vedrà chissà quando. Il chissà quando non sappiamo nemmeno se ci sarà. Beh, ma allora è proprio forse per questo che le persone scendono in piazza e manifestano la loro disapprovazione, insomma. Proprio per essere chiare, in un certo senso, rispondere a tono a un provvedimento che loro trovano ingiustificato o che trovano eccessivo da altri punti di vista. Come mai sento questo, appunto, questo tuo esporre, insomma, critico riguardo alle manifestazioni? Perché sono manifestazioni che non sanno sostanzialmente perché manifestano. Cioè, alcune cose si vedono chiaramente, invece di, non mi ricordo quante ore erano, 24, 26, eccetera, ormai a scuola elementare, non ore, il numero di allievi, ormai siamo a 29, e chiunque si occupa un minimo di formazione, educazione, sa che una classe di 29 bambini a 6, 7, 8 anni, oggi addirittura 5 e mezzo, è del tutto ingestibile. Cioè non succede niente, a meno di non ricorrere a sistemi, diciamo, di un tempo, cioè all'autoritarismo più bieco. Ma se si vuole impostare un discorso, diciamo, di pensiero, un discorso critico, di autonomia, fin dalla primissima classe, dalle primissime classi elementari, non si possono avere allievi classi di 29 elementi, già 15 secondo me è troppo. Ma perché non si fanno classi di 15 elementi? Perché naturalmente si raddoppia il numero delle classi. Dici, beh, bene, perché così anche gli insegnanti hanno più posti di lavoro. Sì, ma i soldi? Non è che non ci sono i soldi ci sono e ce ne sarebbero anche molti di più. Ma non si spendono per l'educazione, perché l'educazione non gliene frega niente a nessuno. Questa è la realtà. Ma contro questa realtà non c'è una protesta effettiva. La protesta è contro, va bene, ore di più, ore di meno, posti di lavoro, programmi. Ma sono tutte cose che naturalmente ci sono problemi effettivi, ma non sono i veri problemi della scuola. La scuola è rimasta dietro di 100 anni rispetto all'attualità del mondo. E di questo nessuno si occupa. Voi pensate che quelli che fanno le manifestazioni abbiano la minima idea del rapporto che oggi dovrebbe intercorrere fra la formazione e la società adulta? Non c'è. Ti parlano, sì, ti posso parlare come faceva Berlusconi qualche tempo fa, sì, mettiamo l'inglese nelle scuole, mettiamo il computer nelle scuole, come se fossero questi i problemi essenziali. Il computer oggi lo usa qualsiasi ragazzino quando gioca con i videogiochi. L'inglese, se lo impari oggi, impari domani, insomma, non è quello il grosso problema. Il nostro problema è impostare il cammino educativo in una maniera radicalmente diversa, che tenga conto del fatto che oggi siamo in comunicazione tutti, 6 miliardi di persone che virtualmente potrebbero parlare fra di loro e mescolare tutti i loro averi culturali. Ma a questo la scuola non ti prepara in nulla, anzi la scuola continua a parlarti dell'italianità, che so io, di Trieste, o di cose di questo genere, o ti parla, che so io, della religione cattolica, o ti parla della religione musulmana, ma non c'è un minimo di presa di coscienza, non dico da parte dei ragazzi, ma da parte dell'istituto scolastico, di quali sono i problemi a cui la globalità ci sta portando incontro, anzi che già esistono, che già ci sono. E contro questa inerzia della scuola, che è anche inerzia degli insegnanti, non è solo dell'istituzione, gli insegnanti non vogliono, perché costa fatica aggiornarsi, costa fatica affrontare i problemi come oggi si pongono, e l'insegnante, ma anche giustamente, pensa al proprio stipendio, pensa al numero di ore, pensa ai ragazzini che sono ribelli in classe, ma il problema di fondo non se lo pongono, perché anche nessuno ne ha mai parlato. Sono cose che sì, probabilmente in sede diciamo più avvedute, diciamo, il mondo pedagogico magari è anche informato di queste cose, benché ho qualche dubbio anche in questo, ma di fatto vediamo tutte le proposte di riforma che si fanno in questi ultimi 10-15 anni sono tutte di una tristezza inconsolabile proprio, non hanno niente a che fare col problema dell'educazione. Quindi, se non erro, stai descrivendo che queste manifestazioni essenzialmente sono conservatrici. Ma non vorrei nemmeno dire questo. Cioè, non sarei in grado di fare nessuna affermazione positiva né negativa su queste manifestazioni, se non che riguardano dei fenomeni di superficie della scuola. Quante ore, quante materie, ci mettiamo la musica, non ce la mettiamo, ci mettiamo, che so io, una disciplina di nuova formazione come può essere l'informatica, o non ce la mettiamo. Sì. Che cose che sono... Concordo che chiamare l'informatica nuova è allarmante, cioè esprime un... Quando poi non si studia tutto il più a sditeggiare un po' sul computer, e come in caso della musica, qualche canzonetta in più o in meno, come se fossero questi dei problemi formativi. Qual è la direzione che secondo te quindi la scuola dovrebbe prendere per essere al passo coi tempi, per migliorare e creare delle persone? Dovrebbe mettere al primo posto la formazione e l'educazione del pensiero e della capacità di servirsene in maniera autonoma, cosa che non è in tutto il mondo. L'istruzione è subordinata alle correnti ideologiche che percorrono la società. Non sono informato naturalmente di quello che succede in Cina, ma penso che in Cina la scuola segue i dettami ancora di un comunismo che è stato poi superato dai tempi stessi. In Italia ancora si parla di problemi che non sono di nessuno, non esistono più. Il bambino deve imparare una serie di nozioni che gli servono o non gli servono, non gliene frega niente a nessuno. Che serve, quante regioni c'è l'Italia, qual è la capitale della Lombardia, o che so io, quello che si chiamava e si chiama tuttora la nozione. Oggi, in epoca che abbiamo questi strumenti, come qui vedo davanti a me, i computer eccetera, che serve avere delle nozioni? Sapere quando è nato e morto Giulio Cesare, che cosa ha fatto? Se mi interessa, clicco Giulio Cesare e quello mi racconta tutto. Ma io non sono motivato a sapere che ha fatto Giulio Cesare, no, nessuno mi motiva, me lo piombano addosso quando sono ragazzino a scuola, mi chiedono di Napoleone, di Giulio Cesare, che sia della rivoluzione francese o di quella russa per esempio, ma senza darmi un minimo di motivazione, perché io dovrei interessarmi di queste cose. Giulio Cesare per un bambino è la stessa cosa che Biancaneve. Ma questo l'hanno anche detto tante volte gli psicologi e i pedagogisti, ma nei programmi non c'è traccia. Tu devi sapere la storia, devi sapere la geografia, sapere, ma non devi saper pensare, anzi è meglio che pensi il meno possibile e sai determinate cose, quelle che qualcuno decide per te. Io devo sapere chi era Gesù Cristo, chi era... questo lo devo sapere, ma che io... il perché io debba sapere queste cose non me le spiega nessuno, e soprattutto non è che non me le spiega, non mi ci fanno riflettere, tutte più te le possono anche spiegare, però chi spiega parte sempre da un punto di vista che è quello suo o quello della cultura di cui vive, Ma non è detto che il bambino che tu raggiungi viva di quella cultura, oggi specialmente con diciamo, gli scambi che ci sono fra le culture, quando si parla di integrazione, per esempio, perché si deve integrare un bambino indiano che viene qui? Cioè si deve integrare per certi aspetti, deve sapere qual è la legislazione del nostro paese per ragioni pratiche, certo, ma per il resto sarebbe molto meglio se lui mantenesse la sua cultura e si confrontasse con la nostra, anziché integrarsi nella cultura italiana. C'è ancora un'idea quasi, diciamo, di patriottismo sotto questo, no? Cioè il poveraccio di emigrato c'ha tanti problemi, lui e la famiglia, e gli comandiamo addirittura si deve integrare al nostro modo di vivere, perché? Quando oltretutto anche per noi sarebbe molto meglio se riuscissimo a scambiarci, diciamo, a dialogare, ma non a integrarci vicendevolmente. Quindi il fatto che noi pensiamo secondo stili anche molto diversi l'uno dall'altro, e tutti questi hanno una loro ragione, ma vanno alimentati e vanno riconosciuti in maniera che uno può gestirli in autonomia, non in libertà, in autonomia. Mentre dell'autonomia a scuola non si parla quasi per niente.